got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena. Questa sera a cena abbiamo invitato un regista di origini marocchine, italiano ormai di fatto, e stiamo parlando di Adil Azzab. Buonasera Adil. Buonasera a voi, buonasera. Prima opera, no? Questo My Name is Adil, che è stato presentato al Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina di Milano, ha avuto un buon successo, un buon riscontro anche di recensioni, ed è una storia vera che parla di migrazione, di Italia, di Marocco, di incontro fra culture. Ma prima di parlare di tutto questo con te, so che ci hai portato un piatto. Sì, sì, ho portato il couscous, che è un piatto marocchino, e mi è tanto a cuore perché quando ero piccolo nel mio paesino si poteva fare la spesa una volta alla settimana al mercato e il giovedì si faceva sempre il couscous, quindi qua, purtroppo si faceva solo il pranzo, insomma pranzo cena, solo un giorno alla settimana, quindi quando c'era il giovedì era insomma un momento molto particolare, e io questo piatto mi collega a questo ricordo qua. E anche il tuo film parla di Marocco e parla di te fondamentalmente, della tua storia, no? Qual è la tua storia? Allora, io sono nato e cresciuto in Marocco fino all'età di 13 anni, e quando ero nato nell'88 mio padre fu uno della prima generazione che è emigrato verso l'estero, specialmente in Italia. Io avevo all'epoca appena un anno e mio padre era partito per l'Italia. Insomma, io sono un po' iniziato a crescere, non ho un po' con l'idea di le voci che mi dicono tuo padre è in Italia, quindi automaticamente poi sei anche curioso, no? Di dire come ha fatto mio padre, dove sta e tutto quanto. E, crescendo poi. Tuo padre era venuto subito a Milano? Sì, lui è. Per amici, insomma tutta la sua generazione, soprattutto quel periodo lì, tutti sono immigrati verso l'Europa, ma tanti in Italia, quindi aveva già delle conoscenze a Milano, il motivo per cui era venuto subito a Milano. Tuo padre chiaramente lavorava, mandava i soldi in famiglia ecco. Che non era una famiglia benestante. Dove esattamente, da che zona tu provieni del Marocco? Allora, la zona si chiama Skiven Sarah, che è la città. In realtà noi siamo molto fuori, quindi sono delle case un po' in mezzo a nulla, e si trova più o meno a centro Marocco, tra Marrakech e Casablanca, quindi in mezzo. So che tu dici sempre questa città a sud di Casablanca per indicare il tuo paese, ma per una volta ci vuoi dire come si chiama il tuo paese, questo agglomerato di case in mezzo al nulla, come si chiama? Emir West. È ambientata proprio lì, no? In questa area dove tu pascolavi le pecore. Sì, ecco, cioè provate a immaginare insomma diversi campi aridi anche certi anni, di poche case in mezzo a nulla, in cui un posto in cui non c'è mai arrivata l'elettricità, che non si può neanche chiamare campagna, perché la campagna è un po' diversa, quindi è un po' una cosa molto delle case in mezzo a nulla, insomma. Portavi le pecore al pascolo, pecore che tu odiavi. Sì, le ho sempre odiate, purtroppo. A te piaceva andare a scuola? Io amavo giocare e soprattutto scuola, quindi è il fatto che mi sono iscritto di nascosto, senza l'insaputa né di mio zio né di mio nonno, avevo rubato il registro di famiglia e ero andato a iscrivermi. Quando poi l'hanno saputo non potevano far niente. E il nonno si era arrabbiato molto, perché vuol dire Adil non può più seguire il gregge, quindi è un casino. Il gregge è l'unica cosa che tiene in vita, insomma, tutta la famiglia fatta di 18 persone. Quindi questa cosa al nonno un po' era arrabbiato, però non poteva più far niente, insomma è stato un po' furbetto in quel caso lì. E sei riuscito ad andare a scuola, oppure comunque hai dovuto seguire il lavoro per mantenere la famiglia? Allora la scuola era o mattina o pomeriggio, o dalle 8 a mezzogiorno o dalle 2 alle 5, quindi quando non andavo a scuola ero dietro il gregge. E qui non mi permetteva poi di avere spazi di bambino, nel senso vedere i tuoi compagni della stessa età che giocano a calcio e tu con il gregge che li osservi da lontano, posso assicurare che è una cosa terribile per un bambino, anche se quelle volte magari scappo per andare a giocare, però c'era il rischio di perdere il gregge. Se perdi il gregge è meglio che non torni a casa, perché se non li prendi dallo zio. Tuo padre era, come abbiamo detto, in Italia, e quindi il capofamiglia era lo zio e il nonno, erano loro? Sì, erano loro che, specialmente lo zio, perché era, insomma, 25 anni, il nonno ormai era un po' abbastanza vecchio, quindi stava prendendo in mano tutto lo zio, e lo zio era, insomma, non era mai andato d'accordo con mio padre, perché probabilmente mio padre è stato duro nei suoi confronti e automaticamente è diventato duro con me. Hai deciso di andare in Italia? Tu sognavi di andare in Italia, perché ne sentivi sempre parlare per il papà che era a Milano? Sì, il periodo in cui ho iniziato proprio a voler andare, quindi ci sono diversi fattori. Il grande e forte desiderio, quello di raggiungere il padre, perché la grande mancanza di un ragazzino è il padre, se non c'è vorrebbe raggiungerlo. Dall'altra parte c'era uno zio duro, no, uno zio che ti tratta da adulto, quindi il vederti comunque, cioè il vedere un po' il futuro assegnato, non avevi speragli, no, di possibilità di poter giocarti, quindi vedere anche i ragazzi che sono un po' più grandi di te, 16-18 anni, che sono un po' disperati, che non hanno soldi per comprare, sono disperati, che odiano la propria vita. Insomma, questa cosa un po' mi ha spaventato. Perché tu vedevi il tuo futuro segnato, avresti fatto la pastorizia, avresti aiutato la famiglia portando le pecore al pascolo. Perché poi, finito la quinta elementare, purtroppo la scuola lì noi che avevamo arrivava fino alla quinta, alla sesta, e dalla sesta praticamente per fare le medie dovevi andare in città, ma per me era impossibile. Quindi una volta finito la sesta, che avevo 12 anni, vuol dire che sarei andato a tempo pieno dietro il gregge, e questa cosa qua mi mandava un po' fuori di testa, cioè una cosa che non volevo che accadesse. Hai deciso che il tuo destino doveva cambiare. Ecco, sì. Lì io sarò riconoscente sempre a mia madre, in cui io le parlai, e lei ha visto questo mal vissuto mio, e lei fece un gesto che mi ha cambiato la vita, quello di andare lì nascosto, parlare con un cugino e dirgli: guarda che Adil, che lo zio, c'è il rischio che lo zio possa far del male a Adil o addirittura ammazzarlo, di a mio marito di fare in modo che porti via Adil da qua. Questo cugino qua cosa fa? Quando poi è venuto in Italia, perché lui era tornato per vacanza, quando lui è venuto in Italia, siccome non c'era telefono, non c'era modo per comunicare, cioè mio padre e mia madre non hanno mai parlato al telefono per 15 anni, quindi la comunicazione verso il marito era questa. Quindi questo cugino arriva in Italia, incontra mio padre e gli racconta un po' tutto, e da lì lui trova il modo, tramite un suo amico, in cui torna in Marocco e viene a prendermi da lì. Quindi tu come sei arrivato in Italia? Con tuo padre? Io ho arrivato con questo mio con mio padre e con questo suo amico, e eravamo fatto un viaggio in macchina di 3 giorni. Abbiamo fatto tutto il Marocco, abbiamo fatto il traghetto, abbiamo fatto Spagna e Francia, e poi siamo arrivati in Friuli perché questo amico di mio padre abitava lì. E allora sospendiamo un attimo il racconto di questa appassionante storia di cambiamento di un ragazzo, un bambino che decide che il suo destino deve cambiare. Questo bambino è Adil, è un personaggio di un film e anche una persona vera. È Adil Azzab che ci sta parlando, ma ci racconterà cosa ne è stato di lui in Italia subito dopo questa pausa. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Allora torniamo in onda con Adil Azzab, un giovane regista di origini marocchine in Italia ormai da molti anni, che ci sta raccontando la sua storia, che è diventata la sceneggiatura di un film autobiografico, My Name is Adil, un film molto apprezzato. Tra l'altro Adil, Gabriele Salvatores l'ha citato, l'ha sponsorizzato, e poi sentiremo anche le parole di Gabriele Salvatores. Anzi, guarda, sentiamole subito. Questo progetto, il progetto di questo film, Il mio nome è Adil, nato in questa maniera, totalmente fuori dalle logiche di mercato, totalmente fuori dalle logiche tradizionali di cinema, e che parte dalla base, dalla verità di una persona, vada in tutti i modi sostenuto. Io penso che potrebbe essere un esempio importante di come, non solo per il film in sé, che verrà fuori e che spero, che sono sicuro che sarà bello, ma proprio come esperienza umana. Questo è la cosa per, queste sono le cose per cui vale la pena vivere, secondo me vale la pena sentirsi parte di una stessa comunità. Quindi io veramente invito tutti a sostenere questo progetto, perché sarebbe la prima volta che una persona che non sa niente di cinema arriva in un paese nuovo, impara a fare il cinema e racconta la sua storia. Io lo trovo così bello e così pieno di speranza che spero davvero che questo progetto sia appoggiato in tutti i modi. Adil, un appoggio non da poco quello di Salvatores, ma vorrei che tu ci continuassi a raccontare la tua storia e la storia di questo bel film. Questo bambino pastore affamato di scuola arriva in Italia e poi è un adolescente, no, a questo punto, a 13 anni. E che cosa scopre in Italia Adil? Il volto dell'Italia coincide con quello che aveva immaginato? Purtroppo no, perché insomma l'Italia dei racconti, poi non avendo avuto TV oppure altri mezzi di comunicazione per vedere come funziona il mondo, l'Italia te la costruisci un po' attraverso le tue immagini. Per me l'Italia era un insieme di case azzurre con un tetto che lo copriva, sospesi per aria. Sì, un'immaginazione un po' così, ma io la immaginavo così. Sei trovato in Friuli. Mi sono trovato in Friuli, che era campagna, che era freddo, neve. Un attimo sono uscito dalla casa e la cosa che un po'... che ho visto le pecore, no? Ho detto, io ho fatto di tutto, ho salutato mia madre, mio fratello, tutte noi, per poi vedere di nuovo le pecore davanti a me. E anche a scuola non è stato facile, no? No, la scuola è stata abbastanza complicata, anche perché non conosci la lingua, ragazzi completamente diversi da quelli di cui eri abituato. Milano, che era, perché poi dopo un giorno sono arrivato a Milano, in cui abitava mio padre. Milano piena di persone che non ti guardano, macchine, tanto rumore, le persone che ti parlano e tu non sai cosa stanno dicendo. E poi inizi un pochino a... Perché tu del Marocco poi conoscevi solo il tuo villaggio, non eri mai stato a Casablanca. Ecco, quello sì, è stato poi... Un'altra cosa che avevo scoperto dopo, che ne ho sentito la mancanza, è quello in cui da un paesino sono venuto qua, quindi neanche il Marocco conoscevo, non ho potuto conoscerlo, e quindi ti senti un po' sospeso su questa parte qua. I compagni di classe come ti trattavano? Ecco, diciamo che il primo anno, quando poi, ma penso che un ragazzo quando poi arriva da fuori inizia un po' a imparare l'italiano, ma diciamo che le prime parole li pronuncia male, e insomma già sei timido, tutto quanto, spaventato, in ansia, di paura di sbagliare. Poi è capitato qualche volta che qualche ragazzo scoppiasse a ridere, no, per queste cose qua. Penso che per chiunque ragazzo un po' questa cosa la demoralizza, ecco. E è stata un po' questa fase, e poi anche nel mio comportamento, perché ero abituato a cioè gli amici, i compagni erano, il comportamento era diverso, quindi ci ho messo qualche anno a capire come comportarmi con i ragazzi, insomma, italiani, ecco, che dall'altra parte il Marocco era totalmente diverso. Ecco. Quindi a capire i codici di comportamento, le abitudini. C'è stata però, so, anche una standing ovation quando sei riuscito a pronunciare i numeri da 1 a 10. Ecco, quello sì, quello è stato un bel momento in cui mi ha incoraggiato tanto. Quindi in una mattinata avevo imparato i numeri da 1 a 10 e poi li ho pronunciati in memoria. E credo di averli detti abbastanza bene, e quindi lì c'è stato proprio l'applauso della classe e tutto quanto. E per un ragazzino, secondo me, è un momento bello, no? Un momento importante quello. Avresti mai pensato di fare il regista quando pascolavi le tue pecore? No, assolutamente, ma anche fino a 5 anni fa, 6 anni fa, non l'avevo mai messo in conto, perché in testa ho avuto sempre tutt'altro, cioè il motivo per cui ero andato, in cui il paesino, io stavo partendo e il paesino le arriva all'elettricità per la prima volta. E vedere questo elettricista che fa l'impianto, poi dopo 3 giorni dà l'elettricità a casa, quando hai vissuto per tanti anni, da quando sei nato sempre nel buio con la candela, e vedere l'elettricità che gli dà fastidio agli occhi, per me quella è stata una magia pura. E quanto avevo detto, l'elettricista mi disse: sì, tu andrai in Italia a fare l'elettricista. E infatti, quando sono arrivato all'Italia, ho finito le medie, a 15 anni dovevo lavorare per dare una mano a mio padre, e il progetto era di poi portare su mia madre e miei fratelli qua. Dovevo iniziare a lavorare subito a 15 anni, la prima cosa che faccio è elettricista, io voglio fare elettricista, e infatti l'ho fatto per 6 anni, e poi ho studiato di... Prima avevi lavorato anche nei mercati con tuo padre. Ecco, quello lì era lavoravo il sabato e la domenica, lunedì e venerdì andavo alle medie, il sabato e la domenica lavoravo ai mercati. Papà purtroppo non aveva il lavoro, o aveva il lavoro scarso, abitavamo con amici, ci spostavamo da un amico all'altro, e quindi aveva bisogno di una mano, e quindi mi ero trovato di lavorare sabato e domenica. Certo, poi hai fatto l'elettricista, e come sei diventato educatore? Quando ero arrivato qua avevo frequentato un centro di aggregazione giovanile, è un centro in cui vengono le ragazze a fare i compiti dopo la scuola. Ecco, lì per me è stato quel luogo lì, è stato un luogo per me quasi una casa, quasi una famiglia, quindi ho avuto tanti educatori che mi sono stati vicini, mi hanno aiutato, talmente che mi era rimasto a cuore che avevo fatto anche altri 2 anni di volontariato, dai 18 ai 20, in cui avevo conosciuto delle persone che sono la causa di questo progetto del film. Ho conosciuto Magda Reggene, ho conosciuto Gabriel Runioni. lavoro come elettricista, quindi c'è stato un anno un po' fermo in cui era la prima volta in cui andassi in crisi di identità, non sapevo se ero italiano o marocchino, non sapevo più cosa fare. Era e da qua poi inizia un po' il film, no? E decido io e Magda di tornare in Marocco. Il mio obiettivo era quello di conoscere il Marocco, che non avevo mai conosciuto. Girandolo tutto con lo zaino, fermando le persone, intervistandole, grazie a questo Andrea che ci ha dato una, Andrea Pellicer, che è il produttore del film, che ci ha dato una videocamera per fare questo progettino, ma era anche perché insomma, voleva che un po' sperimentassimo questa cosa nuova. E torniamo poi in Italia con questo prodotto, lo montiamo, un prodotto di 3 minuti, lo facciamo vedere a degli amici, tra cui Gabriele Rognoni e Andrea Pellicer, in cui vedono questo trailer qua e da subito capiscono che dietro c'è altro. Ecco, forse probabilmente io e Magda all'epoca avevamo 22 anni, non siamo riusciti a percepirlo, loro sì. E da qua un po' nasce l'idea del film, insomma. Come è stato prodotto questo film? Perché non c'è solo un produttore, ma c'è anche una storia di crowdfunding, no? Ecco, sì, sì. Ecco, la parte crowdfunding è stata una parte fondamentale, è una raccolta fondi. Eravamo riusciti a raccogliere una somma in cui ci dasse la possibilità di poter girare in Marocco. Negli ultimi 30 anni più di 300.000 persone, ho letto, di quella regione da cui tu provieni, del Marocco, sono arrivate in Europa, e la metà circa in Italia. Sì. Quindi stiamo parlando di una regione povera, come tu ci raccontavi, da cui molti sono scappati. Si stima anche che 1 su 10 di queste persone sia morto. Sì. Tuo padre è uno dei più fortunati perché ce l'ha fatta, e anche tu. La fase in cui è stata forte è stato il periodo in cui ero partito anch'io, era verso il 2000, il 2005, in cui soprattutto quella regione lì c'è stata una forte immigrazione, soprattutto di ragazzi, perché i ragazzi con cui sono andato all'elementare, quindi gli amici, erano tutti partiti. Ecco, questa cosa, perché poi sono anche interessato su questa, avviene meno. Per fortuna, nel senso che... Perché il Marocco è meno povero, secondo te, o per quale altra ragione? Perché secondo me il Marocco è in via di sviluppo, il Marocco sta crescendo, soprattutto da quando è salito al potere il re, il figlio del primo re, che è salito nel 99, ma poi le cose sono iniziate a cambiare verso il 2006, così. Ecco, da lì poi questa cosa, secondo me, il Marocco, cioè... si sta un pochino meglio, ecco, si sta meglio, quindi un ragazzo non mette più a rischio la sua vita per andare dall'altra parte, ci pensa un po' di più, o anche perché man mano dà valore alla propria vita, no? Quindi, cioè, parliamo di ragazzi che comunque partendo che sapevano di dire o ce la faccio o non ce la faccio, quindi vuol dire che la tua vita non so quanto è importante se poi la metti a rischio, no? Cioè, vuol dire che stai proprio male, che ti spinge poi a giocarti la vita. Ecco, certo. Questo, secondo me oggi, sì, soprattutto dalla parte del Marocco, si dà di più un po' il valore alla vita, ma anche perché c'è una crescita del Marocco. Mi ricordi in che anno sei arrivato? Nel 2001. Proprio nell'anno dell'11 settembre. Tu sei arrivato in che mese? Io sono arrivato il 1 settembre del 2001, quindi 10 giorni prima del, purtroppo, di quel fatto lì. Da quel momento in poi le persone di origine araba sono state guardate in un'altra maniera. Tu l'hai sentita questa cosa? Sì, io l'ho sentita, e finché poi non raggiungi una sicurezza in te stesso la sento ancora di più. La senti tuttora? Adesso la sento meno, ma perché poi, insomma, ho fatto un percorso importante di studi e tutto quanto, in cui sono arrivato a dire, cioè, mi dispiace perché ci vanno di mezzo tutti, ecco, nel senso che persone che danno la propria vita, che ci credono, che vanno di mezzo per questo fatto qua. E ora fortunatamente di meno, altri, soprattutto con gli adolescenti con cui lavoro, sentono un po' il peso di questa cosa qui, soprattutto poi anche dalla nazionalità. Lavoro con dei ragazzi che sono nati ormai qua, che sono italiani, però di genitori o marocchini o altro, e loro questa cosa qui la soffrono, perché non riescono a capire se sono italiani, perché a casa i genitori gli dicono tu sei marocchino, fuori da casa il ragazzo si sente italiano, e vivono un po' su questa cosa qui. Abbiamo parlato molto di te e di questo Adil che appare sullo schermo, che tra l'altro uno degli Adil ragazzini è tuo fratello, se non sbaglio, no? L'interprete, perché questo film è girato con attori non professionisti, tra cui anche tuo fratello. Abbiamo parlato di tuo padre, di tuo zio, di tuo nonno. Mancano un po' le figure femminili. Volevo chiederti di tua madre, sia di tua madre e del tuo, ci hai detto, questo grande momento in cui tua madre fece una scelta di mandarti, fondamentalmente di lasciarti andare in Europa, ma anche nel film, che ruolo ha e la nostalgia anche per questa persona? Ecco, la madre secondo me nel film ha un ruolo importante, e credo che siamo riusciti a raccontarla bene. È una madre che si trova per quanto l'amore di un figlio, si trova a essere costretta a mandare il suo figlio, il primo maschio, cioè il primo suggerito maschio, è costretta a mandarlo via. Quindi è stato doloroso per lei, ma anche perché io per questo le sono sempre grato, per aver avuto questo coraggio. Poi mandarlo che non sa dove, con chi, un ragazzo di 13 anni, vuol dire che ci sono stati delle cose forti a spingerla da questa parte qua. Mia madre è stata diciamo la prima moglie, mio padre è il primogenito maschio, quindi la prima moglie che è arrivata, perché in Marocco quando si sposa la donna si sposta dal marito, quindi si è trovata in mezzo dalle zie, dei zii, che non è stata vista bene, no? Nel senso, non era facile anche per non lei. Non era facile, quindi fare tanti anni di sacrificio, di portare avanti una casa di 15 persone, 18, e lei si è detto meglio che tu vai via che rimani qua, ecco. Tua madre vi ha mai raggiunti? Fortunatamente sì, è qua in Italia, a Milano, fa il corso di italiano e man mano sta imparando un po' l'italiano, anche si fa fatica. Grazie ad Adil Azzab per essere stato con noi questa sera. Se riuscite a trovarlo, andate a vedere My Name is Adil, questo film molto bello, in questo paesaggio nordafricano fantastico, questa storia molto intensa che ha girato questo giovane regista italo-marocchino. Grazie Adil. Grazie a voi, grazie. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto di Indovina chi viene a cena. Io vi do appuntamento a sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, a sabato, ciao. You've got to give a little. That's the glory.